24 mattino. Buongiorno Spezia. A proposito della psicosi, io lavoro in una clinica privata di Roma e ieri il caposala è venuto a dirci: attenzione alle mascherine, sembra non ce ne siano più in giro, per cui non dobbiamo sprecarle. Ok, vi rendete conto? Se è vero che non ci sono casi di pazienti contagiati al di sotto dei 15 anni, quello che hanno detto i leghisti è una colossale stupidaggine. Secondo me è giustissimo metterli in quarantena. E poi non si tratta di cinesi, si tratta di chiunque arrivi dalla Cina. Bambini, anche italiani che arrivano dalla Cina, vengono messi in quarantena. È per un bene di tutti. Le 7, 20 minuti, 33 secondi, inizia la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Iniziamo, e spesso facciamo, con le vostre voci, una sulla psicosi, La caposala che dice: attenzione, sono finite le mascherine. Ma cavoli, ma nemmeno negli ospedali sappiamo regolarci. Allora, come ribadito da tutti i medici che abbiamo sentito in questi giorni, che ha sentito Nicoletta Carbone, che abbiamo sentito noi, le mascherine servono a chi è contagiato per non contagiare gli altri, ok? A questo. Poi, se volete la coperta di Linus della mascherina, prendetela, che vi devo dire. E poi, è aperto il dibattito su questa decisione dei governatori leghisti. Abbiamo sentito prima la voce del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il quale dice: no, guardate, non è che serve, può servire nel caso di persone che provengano dalle zone epicentro di questa pandemia. Detto ciò, a queste sono dedicate gran parte delle aperture dei giornali, perché... Scuole sfida sulla quarantena, titola il Corriere della Sera. La psicosi virus irrompe a scuola, titola il Quotidiano Nazionale. Virus, il caso dei cinesi in classe, il titolo del Messaggero. Bambini dalla Cina fuori dalle scuole, tra virgolette, il titolo della Repubblica. Psicosi e divieti è quello di Avvenire. In fuga dall'inferno del virus, il titolo della Stampa, con i racconti della cecchignola dei 56 italiani appena rientrati. Scuole, sbarchi e rissa sul virus, il titolo del Giornale, su quello che ormai è uno scontro politico, curiosamente. E a proposito dello scontro politico, il Foglio presenta in apertura un pezzo di Salvatore Merlo, così titolato: da Salvini a Fassina, dai Grillini a Repubblica, da Fusaro a Morra, dimmi cosa vedi nel coronavirus e ti dirò chi sei, un test psichiatrico. Come le macchie, mi dica cosa vede in queste macchie. Cina, il virus abbatte le stime di crescita, è il titolo del Sole 24 Ore. Ci arriveremo tra un attimo ai dati forniti dal Sole 24 Ore. Il Manifesto, l'influenza del mercato, esattamente, appunto, sull'aspetto economico. Libero, precaria isola il virus, ricercatori trattati in modo scandaloso. E la Verità, Conte abbandona un ragazzo italiano in Cina, è quello che è rimasto in Cina perché aveva la febbre. Iniziamo però, come sempre, da qualcosa di diverso. E oggi voglio iniziare da un luogo che è lontano, È il Pakistan. Perché? Perché è una storia che troviamo solamente sul quotidiano Avvenire e ha a che fare con la minoranza cristiana in Pakistan e i diritti di una ragazzina di 14 anni. Lei si chiama Huma e il verdetto su di lei era atteso in realtà da tutta la comunità cristiana. Una doccia fredda, racconta Stefano Vecchia, si è abbattuta sulle speranze della famiglia di Huma. una 14enne cristiana rapita quasi 4 mesi fa da un gruppo di adulti musulmani e poi presa in moglie da uno di essi. Un altro scacco per la legalità in un paese che sembra incapace di uscire dalle proprie contraddizioni. Eppure in un primo tempo era apparso che si aprissero possibilità concrete per l'adolescente, la prima vittima di nozze forzate in seguito al sequestro ad essere chiamata a testimoniare davanti ad un'alta corte provinciale. Invece ieri Huma, ancora prigioniera del marito, non si è presentata al tribunale di Karachi e in sua assenza i giudici hanno stabilito che, anche se fosse provata la minorità, la costrizione e lo stupro, le nozze tra la ragazzina e il suo rapitore Abdullah Jabbar resterebbero valide, perché secondo la legge islamica l'arrivo al primo ciclo mestruale consente a una bambina di contrarre matrimonio. È l'ennesima sconfitta della giustizia, l'ennesima riprova che lo Stato non considera i cristiani cittadini pakistani, è stato il commento rilasciato dopo l'udienza ad aiuto alla Chiesa che soffre dalla madre di Huma, Nagina Yunus. Per noi cristiani sarebbe meglio uccidere i nostri figli, dato che non possono vivere liberamente in Pakistan. Tra l'altro, racconta Stefano Vecchia che è stata appena approvata una legge in questo senso. Per la prima volta, appunto, l'istanza dei genitori di una ragazzina rapita è arrivata in un tribunale. Questa nuova norma, appunto, però vede prevalere su di sé quella che è la legge islamica o quasi tribale in questo caso. Nella prossima udienza, annunciata per il 4 marzo, la ragazzina Huma potrebbe essere tolta al marito sequestratore e affidata ad un centro specializzato. Anche se si arrivasse ad una simile sentenza, comunque, lascerebbe comunque a piede libero Jabbar e non annullerebbe il matrimonio. Una storia di ingiustizia che arriva dal Pakistan, che riguarda la comunità cristiana e che dovrebbe interessare tutti noi. Così come interesserà molte persone, immagino, la decisione invece della Corte di Giustizia Europea, che ha a che fare con una vicenda di un padre separato al quale la madre impediva o di vedere la figlia o creava molte difficoltà nel momento nel quale doveva vedere la figlia. E la racconta Angela Pederiva sul Messaggero Veneto, perché la storia arriva sul Gazzettino, appunto da Venezia. È stato leso il diritto di vedere la figlia e la Corte europea ha condannato l'Italia, condannando l'Italia a pagare un risarcimento a quest'uomo. Sarà l'Italia a pagare per la lesione del diritto di un papà a vedere sua figlia, benché dagli atti risulti che il loro rapporto è stato ostacolato dalla mamma. Lo stabilisce appunto questa sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha condannato lo Stato a versare 23.000 euro a un 46enne residente nel veneziano, al quale l'ex compagna impediva di frequentare con regolarità la bambina. La storia è una storia che è, insomma, simile purtroppo a molte altre storie. La coppia si separa nell'estate del 2009, lei va a vivere con la bimba di 3 mesi nel padovano, lui comincia a segnalare difficoltà nell'incontrare la piccola, trascorrono 3 anni di litigi fra i genitori, fallimento della mediazione da parte degli psicologi dell'azienda sanitaria, intervento dei servizi sociali, interruzione dei contatti. All'inizio del 2014, quindi ci vogliono 5 anni dall'inizio di questa vicenda, il tribunale attribuisce l'affidamento esclusivo alla madre, ma prima della fine dell'anno la Corte d'Appello ammonisce la donna sul mancato rispetto del diritto di visita. Nel 2015 i giudici predispongono la custodia congiunta. Nel 2017 gli assistenti sociali, la bambina ormai ha 9 anni, ragazzi, ha 9 anni. Gli assistenti sociali informano che il procuratore e il giudice tutelare che la donna sta manipolando la minore al fine di aizzarla contro l'uomo. Così nel 2018, con un provvedimento deciso dal tribunale confermato in appello, la bambina viene riaffidata ai servizi sociali. Dopodiché il papà presenta ricorso contro la Repubblica Italiana davanti alla Corte Europea. Qual è il punto? I giudici europei hanno riconosciuto che è sì vero che era la madre, la motivazione, la madre che impediva prevalentemente al padre di non vedere la piccola, ma è vero anche dall'altra parte che i giudici e le autorità italiane non hanno fatto nulla per impedire tutto questo e dunque condannata l'Italia e sarà lo Stato a pagare questi 23.000 euro, di cui 13.000 di risarcimento e 10.000 di spese legali. Dalle cronache internazionali peschiamo, siamo a pagina 17 del quotidiano nazionale, lo trovate anche da altre parti, però insomma è un Me Too che si scatena in un mondo inaspettato, è quello di Victoria's Secret, la grande marca appunto dell'intimo femminile. È finita travolta da uno scandalo e addirittura il proprietario è pronto a vendere. Angeli all'inferno. Lo scoop del New York Times che ha svelato una realtà di abusi e molestie dietro le quinte scintillanti di Victoria's Secret e rischia di infliggere il colpo finale all'immagine di un brand icona della moda femminile, ma che ora rischia di scomparire. Il declino è iniziato con la crisi delle vendite e adesso però appunto arriva il Me Too. A partire dal tema che riguarda Ed Rasek, il direttore marketing che ha creato il fenomeno degli angeli di Victoria's Secret, facendolo divenire uno degli eventi più attesi e glamour del mondo della moda. Accuse a quest'uomo di 71 anni di molestie vere e proprie, di frasi sessiste, di presenza fissa nei camerini nei quali le modelle si cambiavano e apprezzamenti continui. Entra in questa vicenda anche però anche Les Wexner, chi è il miliardario proprietario della holding che controlla Victoria's Secret, il quale, originario dell'Ohio, 82 anni, una fortuna stimata da Forbes in 4,6 miliardi di dollari e da Bloomberg in 6,7, il quale aveva già fatto parlare di sé per la frequentazione con Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo, lo ricorderete, che si era tolto la vita, il che rischia di accendere un ulteriore faro sulla vicenda. E adesso, appunto, l'uomo sarebbe pronto a vendere. Ancora questioni collegate al cosiddetto movimento Me Too, o almeno così vengono ricollegate sui giornali, ne parlano il quotidiano La Repubblica e La Stampa a pagina 15. Avete presente il carnevale di Ivrea? Quello nel quale si lanciano le arance dai carri, insomma, una tradizione molto importante che genera un volume d'affari di 2 milioni di euro per la città, mica poco. Ebbene, c'è il racconto che sta squassando un po' tutta l'organizzazione del carnevale a pochi giorni dall'avvio di una 39enne che aveva il ruolo di vivandiera. Poi là ognuno ha un ruolo, qua non sto a spiegare perché devo dire la verità, non, i ruoli del carnevale Ivrea non sono chiarissimi nemmeno a me, però so questo, so che c'è un capo per così dire di tutta questa scena che è il generale. Ebbene, il generale che tra l'altro per questa tradizione spende poco più di 20.000 euro solamente per i vestiti, per l'organizzazione eccetera eccetera, ebbene il generale attuale Alberto Bambonato è accusato di molestie da una vivandiera, dunque si dimette e a pochi giorni dal carnevale di Ivrea, quello del lancio delle arance, beh, esplode un enorme scandalo per questi 40 messaggi contenenti avance ricevuti dalla donna su WhatsApp. Una pausa. Ed eccoci di nuovo, veniamo alla parte centrale della nostra rassegna stampa, iniziando, com'è naturale, dalle vicende che hanno a che fare con il coronavirus. Dove in primo piano c'è questa decisione, come ben sapete, o meglio questa richiesta dei governatori leghisti di poter mettere in quarantena i bambini, gli studenti che sono tornati dalla Cina. E dove però resta in primo piano tutta la questione economica anche, che è l'apertura del Sole 24 Ore di oggi, con tutto il rispetto ovviamente per le vittime in Cina, per i timori che ci sono e per le psicosi, ci arriveremo tra un attimo alle psicosi e anche a chi sfrutta le psicosi un po' per i fatti suoi. Ebbene, il Sole 24 Ore dedica l'apertura all'abbattimento delle stime di crescita proprio a causa appunto del coronavirus. Il pezzo lo firma Stefano Carrer, che ci racconta di un impatto dell'economia sull'economia pesante. In Cina crollano la borsa di Shanghai, la domanda di petrolio, almeno lo hanno fatto nelle scorse ore. Gli analisti prevedono un aumento del PIL per la Cina in intorno al 5,4%, che per la Cina è un aumento del PIL ovviamente piuttosto basso. Isabella Bufacchi, corrispondente a Francoforte, racconta di come la Germania sia il paese più esposto e ci siano timori sulla catena del valore, e ovviamente a corredo di tutto questo, nel momento nel quale trova delle difficoltà la Germania, naturalmente troviamo delle difficoltà anche noi, lo abbiamo raccontato spesso nei mesi scorsi quando si è parlato dei rischi per la crescita economica tedesca. E poi c'è il tema dell'impatto specifico sull'Italia, insomma del nostro import-export con la Cina. Lo racconta Luca Orlando e qua siamo a pagina 2. L'ipotesi che la diffusione del coronavirus inchiodi lo sterminato mercato interno cinese per prodotti di consumo e beni di investimento rappresenta, dice Orlando, un cruccio non marginale per le imprese. In termini relativi, soprattutto per coloro che operano nel settore dei mobili, dei macchinari, del tessile e abbigliamento, perché osservando i dati dell'export, sono questi i comparti del Made in Italy che in rapporto alle vendite totali estere risultano maggiormente legati all'economia di Pechino. E quindi si apre tutto il fronte, abbiamo parlato prima alle 6.45 dei rischi per il turismo, e ci sono naturalmente anche i rischi per il nostro export. A Catania, Biella, Vercelli sono le tre province con le quote di vendite più alte, e poi c'è un'incognita che ha a che fare con le forniture. Il tema dei presidenti di regione leghisti, che come avete sentito anche in GR24 hanno chiesto appunto di poter mettere in quarantena gli studenti tornati dalla Cina. Il quotidiano La Repubblica, pagina 3, ci porta due opinioni a confronto. Sono quella di Walter Ricciardi, rappresentante dell'OMS, ex guida dell'Istituto Superiore di Sanità fino al 2018, dice in sostanza: una volta tanto le regioni leghiste hanno ragione. Evidentemente avranno qualche tecnico bravo che ha consigliato gli amministratori. Del resto quello che dico sta nei manuali di igiene. È con l'isolamento che la sanità pubblica ha sconfitto le malattie. E nella circolare del Ministero, ieri è arrivata una circolare del Ministero che dice in sostanza che questa misura non va applicata, dice: dal nostro governo arrivano segnali contraddittori. Si parla di grandissima attenzione, si dice anche che non ci si deve preoccupare, e va bene. Poi interrompono i collegamenti aerei con tutta la Cina, ma non pensano a strategie di sorveglianza su chi proviene dalle aree a rischio, a parte i nostri connazionali arrivati con l'aereo militare. E l'altra intervista affiancata è quella che presenta un'opinione diversa, è quella di Alberto Villani, 62 anni, presidente della Società Italiana di Pediatria, che invece dice: ragazzi, qua non c'è nessuno che arriva dall'area infetta, per la scienza non c'è pericolo. Le province toccate dall'epidemia, ricorda Villani, sono circondate da un cordone sanitario. I voli per l'Italia provenienti dalla Cina sono bloccati. Come potrebbe arrivare un bambino dall'area infetta? E vi pare che i genitori, se il figlio sta male, lo manderebbero a scuola? Potrebbe essere malato senza sintomi o in fase di incubazione, chiede Elena Dusi. Siamo in un paese dagli standard igienici alti e con un sistema sanitario nazionale in grado di stabilire se c'è un rischio per i nostri bambini. Eviterei di creare troppo allarmismo. Anche tra gli scienziati, due opinioni a confronto. Come vi dicevo, forse è paura vera o forse è psicosi questa vicenda del coronavirus. Insomma, qua la psicosi viaggia anche con informazioni incredibili, un po' ve le fornivo prima e le riporta bene il Quotidiano Nazionale a pagina 5. Girano voci secondo le quali il consumo di aglio proteggerebbe dal coronavirus, l'olio di sesamo sulle mani è uno scudo contro il virus, i disinfettanti aggressivi da mettere sulla pelle o sotto il naso, ma come vi dicevo qualcuno pare sfruttarlo. Chi sono? I netturbini di Roma. L'esquilino è la zona di Roma nella quale è maggiormente concentrata la popolazione cinese. Ebbene, da qualche giorno, curiosamente, la raccolta della spazzatura e la pulizia delle strade va molto più a rilento. E perché? Perché i netturbini all'Esquilino non ci vogliono andare. I residenti, raccontano Laura Bogliolo e Lorenzo De Cicco a pagina 33 in Cronaca di Roma del Messaggero, i residenti dell'Esquilino se ne erano già accorti, il quartiere più sporco, invaso dai rifiuti. I netturbini se ne vedono sempre meno. L'AMA ha già avviato controlli su assenze e malattie di netturbini e spazzini che da turno sono assegnati nelle aree della città dove i residenti cinesi sono più numerosi, da Piazza Vittorio al Prenestino. Dopo la carrellata di chat interne svelata ieri dal Messaggero, nella quale gli operatori esprimono grande timore di lavorare in questi quartieri, tanto da far registrare molte assenze per malattie e ferie, l'amministratore unico dell'AMA, Stefano Zaghis, ha deciso di rafforzare il monitoraggio. Qualcuno ha deciso di rimanere a casa, nella sola zona 1F che copre buona parte dell'Esquilino, su 77 addetti, in 26 erano assenti, più 40% rispetto al lunedì della settimana scorsa per malattia, gli altri sfruttando permessi, congedi, ferie, del resto appunto basta scorrere le chat interne. Va detto che in AMA il tasso di assenteismo non è basso normalmente. Nell'ultimo trimestre del 2019 si è toccato il picco annuale di forfè dai turni, 15,8% di assenze tra malattie e quant'altro. E adesso arriva anche il coronavirus a dare una mano. Traffico. Prima di andare alla parte più puramente politica di questa giornata, c'è solo un'altra segnalazione che vi voglio fare sulla vicenda del coronavirus ed è i pezzi li trovate su due o tre giornali, ma forse quello che gli dà più spazio è il Corriere della Sera a pagina 6 ed è la questione di come Pechino sta reagendo a come reagiscono gli altri, ossia l'accusa agli Stati Uniti, come racconta Guido Santevecchi appunto su Corriere della Sera: avete creato e diffuso il panico. Insomma, la tensione con gli Stati Uniti, tra Cina e Stati Uniti, che si sposta anche su questo tema. Veniamo alle questioni più puramente politiche. Il tema è quello della prescrizione, come ben sapete, che sta aprendo un nuovo dibattito, un nuovo scontro interno alla maggioranza. Le ultime sono le parole di Zingaretti ieri, che per provare ad uscire dal cul-de-sac ha detto al Presidente del Consiglio Conte faccia una sintesi sul tema della prescrizione, con un'idea, come racconta a pagina 8 del Sole 24 Ore Giovanni Negri, che Bonafede si è rimasto un po' isolato. È in corso certo una lite tra Partito Democratico e Italia Viva di Matteo Renzi, che ha minacciato non voteremo, rischiate di andar sotto sul tema della prescrizione, ma è vero anche dall'altra parte che si cerca una mediazione tramite il Presidente del Consiglio Conte. E Lina Palmerini qua appunto sul Sole 24 Ore fa un ottimo punto, ci racconta innanzitutto che manca una settimana per trovare una via d'uscita, perché sulla prescrizione i giorni del calendario da tenere d'occhio cominciano il 10 febbraio, quando il decreto mille proroghe comincia il suo iter alla Camera. E però sul fronte dell'impatto politico che questo può avere, ossia può condurre la battaglia sulla prescrizione a una crisi di governo? Chissà, di certo il partito di Renzi, dice Lina Palmerini, non è nelle condizioni di fare una crisi per tornare alle urne e dunque non può usare l'arma finale. I ricatti funzionano se lo sono davvero, se realmente si possono portare avanti fino in fondo, ma tutti i protagonisti di questa vicenda sanno bene che in gioco c'è più il profilo identitario di ciascun partito che non la vita del governo. Staccare la spina è un prezzo troppo alto per tutti, e in particolare per chi, come i renziani e i grillini, hanno brutti numeri nei sondaggi. E quindi si tira un po', ci sembra di capire, a campare su questa vicenda, si tenta di tenere su il governo, con un'ipotesi che addirittura inizia a circolare di un governo con Salvini e senza Conte e il Partito Democratico. Quindi via Conte e il Partito Democratico, dentro tutti gli altri e un nuovo premier. Le difficoltà di queste due forze politiche sono testimoniate poi da questa pagina 13 del Corriere della Sera, che con Marco Ascione fa una, basandosi sugli ultimi sondaggi, sull'ipotesi dell'ultima legge elettorale e con il dimezzamento dei parlamentari, ci dà un po' la misura di come potrebbero andare le cose, come potrebbero andare le cose se si andasse al voto oggi, basandosi sui sondaggi e su questa legge elettorale che si sta pensando, che è questo germanicum, il proporzionale con la soglia nazionale del 5%, il diritto di tribuna. A Lega e Fratelli d'Italia 205 deputati su 400, così potrebbe cambiare la Camera. Quindi a Lega e Fratelli d'Italia, Lega e Fratelli d'Italia da soli avrebbero la maggioranza alla Camera con 5 deputati. Questo sarebbe l'ipotesi, appunto, al momento, stando ovviamente ai sondaggi. Se si andasse al voto adesso, rispecchiando il voto dei sondaggi e appunto utilizzando questa nuova legge elettorale, il germanico, e quindi sono un po' a supportare questa tesi Lina Palmerini, e che un po' troviamo su tutti i giornali, secondo la quale nessuno in questo momento tra i principali attori della maggioranza ha interesse a tornare al voto e forse nemmeno a cambiare governo. Quello lo vedremo. Da segnalare sempre sul Corriere della Sera, sul tema della prescrizione, a intervenire è anche Davide Ermini, il vicepresidente del CSM, eletto, lo ricorderete, il 27 settembre del 2018, una intervista nella quale dice che alla giustizia serve una riforma organica, sono sbagliati gli ultimatum e i partiti devono collaborare. Ovviamente non entra nel merito, dice, la soluzione spetta al Parlamento e al governo sulla prescrizione, ma su questioni che incidono direttamente sulla vita e la pelle dei cittadini si dovrebbe trovare la massima condivisione possibile anche con l'opposizione, visto che si tratta di attuare i principi costituzionali del giusto processo, della sua ragionevole durata e delle garanzie. Ma proprio per le questioni identitarie delle quali ci parlava Lina Palmerini poco fa, insomma, sembra difficile che si possa arrivare ad una soluzione bipartisan. Molti giornali riportano dello scontro che è in atto, chiamiamolo così, scontro, quello nelle sardine, tra le quali il responsabile romano Stefano Gongo ha deciso di lasciare, e La Verità intervista Jasmine Cristallo, 39 anni, la leader calabrese del Movimento delle Sardine, ed è la prima volta, nota Francesco Borgonovo già nell'intervista, che una sardina rilascia un'intervista a un giornale non amico. Lei è stata anche l'unica ad andare ospite su Rete 4, gli altri sembrano di diverso avviso, il dialogo con chi la pensa diversamente non lo considerano. Se Marco Minniti è potuto andare a un convegno di Fratelli d'Italia ricevendo applausi, guarda caso proprio in tema di sicurezza, non vedo perché una semplice cittadina non possa raccogliere l'invito per un'intervista, dice. E ritorna su questa storia della foto fatta insieme a Benetton, dice che errore la foto con Benetton, e lancia una raccomandazione: Santori & Company non comandino da sole. Tutto questo dopo che appunto Stefano Gongo ha annunciato la secessione delle sardine, la secessione del gruppo di Roma. Questo un po' quello che troviamo sui quotidiani in merito alla politica, una discussione sulla prescrizione che ovviamente proseguirà. Altri due elementi che vi voglio segnalare dall'estero. Ancora Avvenire, forse è l'unico quotidiano che si sofferma su quello che sta succedendo in Siria, dove è scattata una battaglia tra siriani e turchi con uno scontro diretto tra i due eserciti. Che cosa è successo? C'è stato un raid di Damasco su un convoglio di Ankara che ha ordinato la rappresaglia. Luca Geronico a pagina 14 ci riassume un po' esattamente quello che è successo. Forse un provocatorio affondo di Damasco nell'ultima provincia ribelle, dove da mesi si è consumato un matrimonio di convenienza fra alcune milizie dell'opposizione e la Turchia. Di fatto è la scintilla che fa divampare la violenta battaglia nell'ultimo fronte siriano. Immediata e ancora più violenta la risposta di Ankara. Quindi mezzi in campo, altri rifugiati e una situazione che continua a farsi sempre più difficile. Molto spazio trovate sui giornali anche a Boris Johnson e alle sue dichiarazioni di ieri, insomma, in avvio di questa difficile trattativa con l'Unione Europea, con la risposta di Michel Barnier che dice: siamo tranquilli adesso, è solo l'avvio delle trattative, ci vorranno i prossimi 11 mesi per ragionarci. Voglio chiudere con una piccola storia, e che però ci dà ancora una volta lo specchio di quello che succede nel calcio di provincia e che ritroviamo a volte rispecchiato nel calcio nazionale. Siamo a pagina 37 del Messaggero, il derby tra le due squadre di Velletri, pensate un po', che finisce in rissa tra mamme sugli spalti. Il marito di una donna disabile viene spinto giù dalle scale e poi colpito con un martelletto da un ragazzino di 16 anni, con la federazione che sta indagando anche sul comportamento dei dirigenti. Ancora un caso di violenza sugli spalti nel calcio di provincia, in questo caso a Velletri. GR24, ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella, avremo ospite Giorgia Meloni, torneremo a parlare ovviamente anche di coronavirus, manco a dirlo, a tra poco.